Il nostro programma inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Ed è di nuovo sabato, care ascoltatrici, cari ascoltatori, chi l'avrebbe detto? Passata una settimana, siamo di nuovo qui a raccontarci quali sono state le notizie infinite anche di questi giorni. Come dico sempre, insomma, l'Italia è davvero un cilindro infinito di conigli di tutti i colori. Tra l'altro, proprio di animali, invece non so se avete sentito che la marmotta Phil, questa famosa marmotta, una celebrità negli Stati Uniti, ha decretato che la primavera è abbastanza vicina. Cioè, illudiamoci così, siamo in pieno inverno, un freddo fa qui a Milano, non so dalle vostre parti, ma sentivo il colonnello Giuliacci, grande amico anche di questa trasmissione, che fa freddo un po' dappertutto. Comunque la marmotta Phil ha detto dovrebbe durare ancora 6 settimane, è stata diciamo interrogata sull'argomento, l'inverno ancora 6 settimane, possiamo sopportarlo, insomma vedremo se questa primavera arriva davvero, ma intanto occupiamoci di quello che è successo in questi giorni con il numero verde, come sempre a vostra disposizione, numero verde, quindi gratuito e nello stesso tempo ecologico, evitate di disperdere tempo, energie, opinioni nell'ambiente e altrove, insomma, e convogliatele tutte qui, non ci sono più le mezze stagioni. Il numero per voi è 800 24 00 24, lo ripeto, 800 24 00 0024, moltissimi naturalmente i fatti, sintetizziamoli così molto brevemente, naturalmente diciamo che ha fatto irruzione in modo veramente, potremmo dire, clamoroso, anche un po' violento, lo scandalo MPS del Monte dei Paschi di Siena, sembra non si parli d'altro, però ecco, notavo con una certa sorpresa che c'è tanto interesse anche da parte degli ascoltatori e ascoltatrici su questo argomento. Uno pensava all'alta finanza, però hanno capito insomma che è una cosa che riguarda il sistema bancario, che riguarda i rapporti tra finanza e politica, che riguarda anche i risparmi di tutti. Comunque, allora, scandalo MPS, indaga anche la Procura di Roma, non solo quella di Siena, e adesso l'ipotesi di reato associazione a delinquere, e poi tutte le polemiche naturalmente appunto durante la campagna elettorale, poi se volete ne parleremo. E Napolitano, il presidente, che giorni fa sul Sole 24 ha detto bisogna fare chiarezza e tutelare l'Italia. L'Eurispes, che dà cattive notizie nel suo rapporto sul nostro paese, dice che la metà degli italiani non è più in grado di sostenere la famiglia ed è ancora record disoccupazione a dicembre, con adesso praticamente sono 2,9 milioni i disoccupati in Italia. Arriva una sentenza che si può definire storica della Cassazione su Ustica, sulla strage di Ustica. Fu un missile, dice la Cassazione, ancora non si sa sparato da chi, così aveva parlato di francesi, ma ancora dopo tanti anni, dal 27 giugno 1980, ancora come tanti misteri italiani, non si sa chi sia il colpevole, però dice la Cassazione che lo Stato dovrà risarcire i familiari delle vittime, che furono 81, perché il Ministero dei Trasporti, il Ministero dell'Interno, cioè, dovevano garantire la sicurezza. Poi le polemiche suscitate da le affermazioni di Berlusconi su Mussolini, anche questo può essere un buon argomento, se volete, da trattare durante la trasmissione. Ho visto molto trattato sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni. Poi ancora l'attacco che è venuto dall'Unione Europea con il commissario all'economia Olli Rehn, che ha detto Berlusconi bloccò la crescita in Italia, è colpa sua, e poi naturalmente anche tutto il dibattito seguito a questa affermazione. Per quanto riguarda la campagna elettorale, mentre è abbastanza sottigliato la distanza tra PD e PDL, oggi notizia che a sorpresa, cioè è risalito Grillo, è praticamente al terzo posto nei sondaggi in Italia. Poi l'agguato a Torino al candidato, vi ricordate, Musì, a sindaco di Torino, sembrerebbe il colpevole, quello che gli sparò e che lo ferì gravemente, tanto che è ancora in coma, questo Furchi, che era con lui un candidato anche lui nell'UDC e sarebbe un movente politico, perché non gli fece dei favori che aveva chiesto. Per quanto riguarda l'estero, in Siria l'inviato speciale dell'ONU Brahimi ha detto il paese va a pezzi davanti agli occhi del mondo. Mi sembra che non ci sia bisogno di aggiungere altro, insomma, e tutti continuano lì, insomma, a dire ma cosa potremmo fare diplomaticamente, come potremmo intervenire. Intanto Israele pum, interviene, e qualche giorno fa un caccia israeliano ha attaccato degli obiettivi militari in Siria. È chiaro che è un territorio, una zona estremamente incandescente, basta una miccia per far esplodere tutto, poi c'è l'Iran, poi c'è il Libano, comunque qualche soluzione bisogna trovarla. Poi il terribile rogo in Brasile, in una discoteca con più di 200 giovani che sono morti. Hillary Clinton dice addio non alla politica ma al suo ruolo prestigioso di segretaria di Stato, quindi di ministra degli esteri, come è stata con Obama col primo mandato. Passa il suo testimone al successore Kerry e conquista la copertina di Newsweek, del settimanale Newsweek, che dice Hillary è stata la donna più potente della storia americana. Pensate, insomma, che lustro per Hillary Clinton questo. Poi un allarme che riguarda invece l'università italiana, 50.000 iscritti in meno, gli studenti sono praticamente giovani in fuga dall'università. Prima ci si lamenta che sono pochi iscritti all'università, poi si dice che invece bisognerebbe ritornare a fare anche lavori manuali, a iscriversi a istituti professionali, lasciar perdere l'università. Adesso di nuovo ci si lamenta che siamo nell'OCSE, nei paesi OCSE, pensate, come laureati su 36 paesi al 34esimo. È una cosa incredibile. E poi la Cassazione che assolve lo Spinello di gruppo. Questa è stata una sentenza un po' particolare. Poi sapete anche la polemica di ieri, dell'altro ieri, dell'ex ministro Giovanardi che ha attaccato la sorella di Stefano Cucchi, morto in carcere, ormai così sono, 3 anni fa. Dicendo che lei è adesso candidata nelle liste di Rivoluzione Civile, che ha usato la morte del fratello per fare carriera politica. Cosa ne pensate, insomma, di tutte queste cose? Sono moltissime, tantissima carne al fuoco, ma vi voglio anche naturalmente dire, come sempre, che cos'è che anche questa settimana ci conferma che non ci sono più le mezze stagioni. Non ci saranno più le mezze stagioni, neanche le intere sono un granché. Allora, quante volte abbiamo sentito tutto il decalogo per rimanere in forma, per dimagrire, eccetera, eccetera. Ebbene, in questi giorni, questa settimana, il New England Journal of Medicine, mica un giornale qualunque, un giornale prestigiosissimo di scienza e medicina, ha inficiato una serie di regole. Questo gruppo di nutrizionisti ha stilato una lista di severi avvertimenti, dicendo, guardate che moltissime sono bufale. E sapete, nel calcolo, per esempio, nelle regole per dimagrire, le cose che fanno bene per dimagrire, che cosa, il calcolo più deludente su quale attività è? Lo volete sapere? Quale attività è? Sul sesso. Ecco, facendo praticamente 6 minuti di sesso si consumano 21 calorie. Quindi quando dicevo, il sesso poi tra l'altro aiuta anche, poi ognuno sa qual è la sua durata, comunque vi dico, ogni 6 minuti 21 calorie, non è questa roba. Però ci sono mille altri motivi, no? Per farlo, e mille altri motivi, naturalmente, adesso per presentarvi, ascoltatrici e ascoltatori, l'opinionista estemporanea di oggi. Sarina Biraghi. Buonasera. Buonasera cara Sarina, direttrice del Tempo. Esatto. Da quanto tempo, visto che di tempo parliamo? Dal 9 gennaio. Dal 9 gennaio, da quando Mario Sechi, amico anche di questa trasmissione, si è dedicato alla politica. Alla politica. Che ne è pensi? È salito in politica con Monti. È salito, perché gli altri sono scesi naturalmente, Monti invece esatto. È salito. E quindi e Sarina Biraghi è quindi la direttrice del Tempo. E, Sarina, se io ti parlo di vomito di balena, tu a cosa pensi? Beh, mi cogli così, direi di sorpresa. Sapevo che ieri è stato individuata anche nei pesci l'area del cervello secondo cui quella che dà gli input, diciamo, agli istinti primordiali, cioè alla fame e al riposo, ma di vomito di balena non avevo sentito parlare. Mi piace, quando i miei opinionisti estemporanei faccio delle domande, lo sapete, ogni tanto tranello, però riescono a trovare un aggancio per dare una risposta, diciamo, dignitosa. Povera Sarina, il vomito di balena, questa è una notizia della settimana ed è anche una cosa per comprendere un fatto in più. Il vomito di balena è, pensa, una cosa, una roccia giallastra preziosissima che effettivamente viene dalla elaborazione, della digestione dello stomaco, dell'intestino, dei capodogli, però diventa una specie di ambra preziosa ed è stata trovata da un signore sulla costa del Regno Unito. Gli offrono adesso 50.000 euro perché questa è una sostanza preziosissima che serve, pensa, per fare i profumi. Quindi sappiate tutti voi che usate i profumi, c'è dentro anche un po' di vomito, di balena, cioè, che è maleodorante quando si prende all'inizio, esatto. Però dopo diventa profumato, evidentemente. Senti Sarina, io direi di andare subito sulle questioni cruciali, a parte il vomito di balena, ma Secondo te, per esempio, tutti questi che lasciano pensare che chissà che cosa ci sia sotto, chissà cosa sarebbe stato detto, eccetera, prendo spunto dalla polemica abbastanza violenta tra Ingroia di Rivoluzione Civile e Ilda Boccassini, magistrata, no? A Milano, lui ha tirato in mezzo un po' Falcone. Secondo me hanno un po' esagerato nelle reazioni, nel senso che lui ha detto: ecco, adesso io entro in politica, e anche quando Falcone in qualche modo si era avvicinato alla politica, ma non è che fosse entrato in politica, era andato a lavorare al Ministero, no, dell'Interno quando c'era Martelli, ma giusto per dirigere gli affari penali, non per entrare in politica. Lui l'ha tirato in mezzo in questo modo. Ilda Boccassini ha detto: non ti permettere di paragonarti a Falcone, tu che sei un piccolo magistrato. E lui ha risposto altrettanto cattivamente, diciamo, dicendo: io intanto mi importa di essere stato in grande considerazione di Borsellino, che non ti dico cosa pensava di te. No, allora mi viene in mente lui che dice così, anche se sono piani differenti, Albertini, che dice: se parlo su Formigoni lasciamo perdere perché lo rovino. Lo stesso Cosentino, quando è stato eliminato dalle liste del PDL una settimana fa, ha detto: se parlo io vi rovino. Cosa è tutto questo? Poi nessuno poi dice niente, cioè, ci lascerò così col fiato, con la curiosità, no? Che pensi tu di... Ma secondo me millantano di sapere dei segreti. Io non credo che sappiano grandi segreti, fermo restando che fare queste affermazioni dà sicuramente un'immagine negativa a chiunque le faccia. Ora, diciamo che finché le fanno i politici, siamo abituati a sentire i politici che dicono tutto il contrario di tutto, che cambiano opinione, che tornano sui loro passi, che usano la stessa terminologia dei loro avversari per poi criticarli. Stai parlando di Monti? Scusami, però fatta da magistrati, insomma, mi pare piuttosto negativo, danno un'immagine della magistratura così litigiosa e così rancorosa, che non fa onore a un potere dello Stato, diciamo, nei confronti dei quali spesso noi ci troviamo a doverci rivolgere, no? Pensare che domani entriamo in un tribunale, che quei magistrati che sono lì, che dovrebbero giudicare, dovrebbero essere al di sopra delle parti, invece poi quando stanno fuori dal tribunale sono come tutti, anzi usano i mezzucci che usano gli altri, insomma un'immagine un po' scadente che non mi piace molto, non credo che faccia bene alla magistratura, a queste persone, ma credo a tutto il paese, al paese Italia, al nostro sistema. Cioè, poi la ministra Severino è intervenuta, abbassiamo un po' i toni, ecco, da parte di tutti e due c'è stata una caduta di gusto e di stile. Tra pochissimo, Serena, ci sono un sacco di ascoltatrici e ascoltatori che stanno arrivando al telefono infiammati, incandescenti, del nostro Giorgio De Luca, e quindi poi diamo spazio a Salvatore da Como, Michele della provincia di Alessandria, a Cesare della provincia di Latina e tutti gli altri. Però intanto c'è Valeria Bernardi, la parte tecnica, che dice: dobbiamo giustamente aggiornare chi sta viaggiando, sono in molti ad ascoltare mentre viaggiano. Poi ti chiederò anche, Serena, è arrivata questa notizia poco fa dalla Francia, l'Assemblea Nazionale Francese, quindi il Parlamento ha approvato l'articolo della legge sul matrimonio per tutti che riguarda le nozze gay. Non ci sono più le mezze stagioni. Eccoci qua, Roberto Giordano, sempre con voi. Sarina Biraghi, direttrice del Tempo, è oggi l'opinionista estemporanea qui a Non ci sono più le mezze stagioni. Poi vediamo, io lo prometto sempre, io me li guardo sempre tutti i vostri messaggi su Facebook, vediamo se riusciamo a dargli un'occhiata anche su questa polemica, sulle frasi di Berlusconi su Mussolini. Però intanto le ascoltatrici e gli ascoltatori con la loro viva voce all'800 24 00 24, comincerei a farli passare, anche Rosa dal Centralino, ci sono moltissimi. Salvatore da Como. Salvatore? Pronto? Eccoci, sì. Eccoci qua. Mamma mia, il timpani mi hanno vibrato. Io ti sento molto bene, Salvatore. Molto, sì. Allora, stavo mangiucchiando comunque, torno da poco dal lavoro. Che stavi mangiucchiando? Ascolti. Che mangiucchi? Mangiucchiavo un po' di finocchio. Ah! Abbiamo mangiato tante verdure, si dicono che dobbiamo mangiare 5 porzioni al giorno di verdure, quindi iniziate da quella. Sì, questo, guardo, aspetta, che sai che è uscito, tu hai sentito all'inizio, no? Tutti questi falsi miti della dieta dimagrante, però le verdure quelle fanno sempre bene. Poi il finocchio è digestivo, diciamocelo, no? È buono. Sì, poi calorie poche, quindi ecco. Va bene, abbiamo di... Allora, io so che il tempo è poco, volevo sinteticamente toccare un po' più di un punto. Allora, l'Italia è un paese che ha un popolo che non è mai stato un popolo unito, questo è pessimistico, questa visione, ma non siamo la Francia, la Germania, il Lussemburgo, la Svizzera, l'Austria, la Svezia, non lo siamo, ed è per questo che a monte abbiamo, no, di conseguenza che abbiamo tanti problemi, non essendo un popolo unito, non lo siamo. Tutti difendiamo i nostri piccoli interessi, a partire da casa nostra, dal nostro paese, dalla nostra provincia, tutti, da questo popolo poi noi eleggiamo i nostri rappresentanti e quindi vengono da noi. Allora io sono il primo, se posso parcheggiare in doppia fila, se posso evitare la multa conosco il vigile, se vado in ospedale il medico, se vado all'agenzia delle entrate il funzionario, poi da noi vengono eletti i rappresentanti e si comportano di conseguenza. Quindi il paese non cambierà mai, anche se io continuerò a lottare nel mio piccolo quando è possibile per farlo, però questo sicuramente è uno dei motivi a monte, no? Non siamo mai stati un popolo e quindi purtroppo sarà così tutta la vita, ma lotteremo per cambiarlo. Almeno uno quando morirà dice: ho lottato per cambiarlo, non sono riuscito. E morirai con la coscienza a posto. Salvatore, ti ringrazio di questa analisi. Volevi intervenire, Sarina Biraghi? No, volevo dire che sì, in effetti siamo il popolo dei campanili, ma certo, forse alla fine il nostro ascoltatore voleva dire che è giusto andare a votare, quindi convincere un po' gli astensionisti, quelli che ancora non si decidono ad arrivare al voto. Ecco, proprio su questo argomento, perdonami Sarina, poi dopo io lascio in sospeso tante cose perché ho talmente tante cose per la testa, anche infatti sulle nozze gay, dopo se mi vuoi dire sulla Francia sinteticamente, però vedevo, mi sembra, sì, Cazzullo, questa settimana sul Corriere della Sera, in un editoriale che si intitolava Il richiamo della foresta, dice: alla fine, in un momento come questo, storico, che è una grande occasione, 24-25 febbraio, di smuovere un po' le cose, i partiti si riducono, anche se per un verso è normale, però non così consistentemente, si riducono, invece che a cercare di convincere gli indecisi, a rinfocolare i propri elettori. Dice, vabbè, Bersani si mette accanto Vendola, poi dipende dai punti di vista, e per sollecitare ancora più i propri più di sinistra, la scivolata, diciamola pure, di Berlusconi su Mussolini, che lo fa per acchiappare quelli più a destra, e così via. Dice, invece di convincere, oppure Monti dice che la lista di Monti è un po' una lista d'élite, no? Invece di andare a convincere quelli che sono ancora molti che non sanno cosa votare, tu che cosa pensi quindi? Perché in effetti i leader dei partiti debbono convincere prima i loro delusi, per questo stanno molto insistendo sul proprio elettorato, perché sia il PD che il PDL ha molti delusi, diciamo così, disgustati. Le primarie del PD, come sono andate a finire, hanno deluso i giovani del PD. Gli scandali che perché sono dici che preferivano Renzi? Beh sì, insomma, Renzi aveva dato un messaggio di speranza, di novità, sembrava veramente il nuovo che avanzasse, e poi invece si è visto che l'apparato ha comunque fatto andare tutto in un altro modo. Però hai visto che adesso erano insieme Bersani e Renzi, esatto, per la prima volta. Esatto, fermo restando che poi ieri Bersani ha, tra virgolette, ovviamente sfruttato Renzi per fare campagna elettorale, e Renzi ieri mi sembra che, oltre a dargli la spalla, però ha parlato molto da sindaco di Firenze, no? Quando ha detto: noi comunque veniamo a Roma, chiunque ci sia, per chiedere per le nostre città. Quindi insomma, questo per il PD. Il PDL ha avuto degli scandali anche a livelli locali, nelle regioni, questa, diciamo, le olgettine, le donne, eccetera. Quindi insomma, prima di tutto devono riconquistare quelli all'interno che sono rimasti un po' destabilizzati, e poi certo conquistare i nuovi, quelli che rischiano invece di passare sul versante dell'antipolitica, o comunque seguire chi, proprio i sondaggi tra ieri e oggi ci dicono, Grillo al terzo posto, cioè Grillo. Senti, per esempio, Cazzullo dice: perché non si riesce a trovare anche qualcosa che sia trasversale, che riguardi un po' tutta la collettività, che sia di interesse generale? Lui ripropone di nuovo i tagli ai costi della politica, che sa che non si sono fatti, quindi riduzione dei parlamentari, riduzione delle loro indennità, dei privilegi. Questa cosa, questi sono argomenti tabù, come dire, dolorosi, perché chi stava al governo prima avrebbe potuto farlo, ma non l'ha fatto nessuno, perché sono cose che tutti avrebbero potuto fare e che poi però alla fine tutti, da destra a sinistra, alla fine hanno dimostrato di non volerlo fare. Quindi sono le famose riforme che ci trasciniamo e che nessuno si decide a fare e che neanche il governo tecnico, va detto, è riuscito a fare fino in fondo, perché il famoso taglio delle province è stato tanto sbandierato e poi andato si è bloccato. A farsi friggere. Senti, sentiamo, sono moltissimi gli ascoltatori all'800 24 0024, Michele dalla provincia di Alessandria. Sì, pronto. Stai mangiucchiando anche tu, Michele? No, non sto mangiucchiando. No, per me la notizia della settimana è quella che non è accaduta, ossia le dimissioni di Bersani. Perché di fronte a quello che è successo, secondo me erano doverose le dimissioni. Cioè, a cosa ti riferisci? Rispetto allo scandalo del Monte dei Paschi, perché quando abbiamo una fondazione che è completamente controllata da quella parte politica lì, ci voleva continuare a dire che non c'entrano niente, secondo me è un'arma a doppio taglio. Perché la gente non è tutta rintronata, capisce benissimo che se si ha una fondazione e non la si vuole mollare nelle percentuali che influiscono poi sulle decisioni strategiche di una banca, ovviamente ci sono degli interessi. Anche se credo, Michele, c'è una buona parte di responsabilità anche in senso generale, al di là dei manager infedeli, le questioni individuali, eccetera, anche se però no, molto vicina alla sinistra, ovviamente. Forse nessuno si può tirare completamente fuori, come ricordava Sergio Rizzo la scorsa settimana. Però Michele, vorrei chiedere, in base proprio a questa tua sottolineatura, e ti ringrazio, a Sarina Biraghi. Monti, proprio giorni fa, pochi giorni fa, aveva detto, appena scoppiato lo scandalo MPS, aveva detto a un certo punto il PD c'entra in questa questione. Proprio ieri sera, invece, ha detto Bersani in questa vicenda non c'entra nulla. Quando ho detto, leggo testualmente, che PD con la vicenda c'entra, non volevo attaccare il partito di Bersani. Non so allora questo acronimo PD per cosa fosse, quando ho detto, comunque non ci si capisce più niente. Questo è la famosa cosa che ti dicevo prima, parlare e poi ritrattare e tornare indietro. Qualcuno dice che assomiglia a Berlusconi ultimamente, Monti. Sì, un po' assomiglia a Berlusconi. Okay, in questo dire e poi correggere, oppure nel dire che i giornalisti non capiscono, come è successo l'altro giorno a proposito delle vacanze per gli studenti. È stata grande preoccupazione tra tutto il paese. Grande preoccupazione nel mondo scolastico. E pronta la rettifica, peraltro, del mio ex direttore. Io direi che il Monte dei Paschi, lo stanno dimostrando anche qui i sondaggi, è una vicenda che tocca sicuramente la sinistra e c'è un calo dei sondaggi. Quello che dobbiamo dire è che Bersani non c'entra, sicuramente non c'entra personalmente, ma probabilmente non c'entra il PD dal punto di vista materiale, cioè le tu operazioni, dici morale, in senso morale? Esatto, le operazioni scellerate non le ha fatte il partito. Il partito è sicuramente presente nella banca, nella fondazione a Siena. Siena è la banca è Siena, lì è un legame veramente stretto a doppia mandata. Ma dal punto di vista legale, sicuramente, fino a prova contraria, per ora il PD non c'entra. C'entra sicuramente dal punto di vista politico, ecco, questo mi sento di dire. Prima di andare, scusami Sarina, da Cesare, la provincia di Latina, e prima di instaurare il nostro collegamento satellitare con Marte, ti volevo chiedere, quindi cosa ne pensi della Francia che sta andando avanti sulla questione dei matrimoni gay, come del resto Olanda aveva promesso in campagna elettorale, a proposito di promesse mantenute? Direi che questo è un nodo, sarà un nodo anche per noi, considerate le alleanze che ci sono nei vari partiti. Dal mio punto di vista personale, devo dirti che per quanto riguarda i matrimoni gay non ho niente in contrario, l'unica cosa che non per la quale mi sento di non essere assolutamente favorevole sono le adozioni. Trovo che non sia naturale l'adozione da parte di una coppia gay. Ecco, questo... Io la penso diversamente, però è un argomento che adesso si collega sempre automaticamente, ma non è così automatico, no? Che l'unione civile allora poi si debba passare direttamente all'adozione. Questo è un argomento che verrà molto molto più in là, se verrà intanto, però insomma, diciamo che una legge sull'unione civile già sarebbe un bel passo avanti, no Sarina? Sicuramente sarebbe un passo avanti, metterebbe, diciamo così, in regola non solo l'unione in sé, ma tutto quello che è attorno ad un'unione tra due persone dal punto di vista legale, insomma, dagli acquisti agli affitti, abbiamo visto la vicenda, non so se l'hai seguita, di Bevilacqua in ospedale con la sua compagna. Certo, avevo fatto anche un pezzo su questa cosa. Esatto, che insomma sono cose veramente dolorose e prive di significato, non è che una persona che convive con un'altra, se non è regolata da un'unione legale, non ha nessun diritto, non risulta amore a tutti gli effetti. Esatto. Infatti, sentiamo allora Cesare dalla provincia di Latina. Cesare? Però sì. Dovresti abbassare, spegnere immediatamente la radio, Cesare, se tu reverbero. Sì, l'ho abbassata. Sì, buonasera, voglio parlare un attimo. Lei prima ha detto, dice, a sorpresa, Grillo si è piazzato al No, terzo il posto. Titolo del Corriere a sorpresa, nel senso che si sapeva da tempo, però saliva e scendeva un po', sembrava che la prima ondata emotiva poi fosse un po' scemata, invece sotto le elezioni ritorna al terzo posto. No, a me dispiace che non, purtroppo secondo me c'è un equivoco di fondo. Che si parla tanto di Grillo, si parla tanto, ma non si parla mai tanto, per niente o quasi dei candidati. Cioè nel Movimento, nel 5 Stelle, c'è una serie di persone comuni che hanno voglia di cambiare e qui entreranno a far politica, e non è Grillo che entrerà a far politica. Grillo come dice lui nei suoi comizi, io sono solo il garante. Sai che ti dico, quindi, scusami Cesare, rimani. Forse la colpa è anche un pochino di Grillo, perché col fatto che non li fa andare in televisione, non li fa esporre, eccetera, rimangono un po' così, diciamo, in sordina sotto la nebbia. Effettivamente i volti di queste persone, i loro programmi, sono un po' oscuri alla gran parte, forse, questa è la mia opinione, Cesare. Sono oscuri per la rete, non sono oscuri per le piazze, perché adesso sta facendo i comizi in tutta Italia. Ma non tutti sono in rete, Tu pensi alle persone anche un pochino più grandi di età, diciamo. No, lo so, quello è vero, votano. Però... Però il movimento è questo, il movimento è stato scelto questo e comunque sta salendo. Io seguo i sondaggi ogni giorno e vedo che salgo. Quello che vorrei far capire è che comunque c'è gente comune che vuole risolvere i problemi che la politica non è riuscita a risolvere in questi anni, perché si è creato questo circolo vizioso nella politica che si è autoalimentata e non ha fatto... E ha fatto perdere di vista veramente i veri problemi della gente. Credo che forse la crisi, dobbiamo dire grazie anche alla crisi di questo, ha fatto prendere coscienza agli italiani che un cambiamento può venire solo dal basso. Beh, se quando si parla degli aspetti positivi appunto delle crisi, dei momenti di crisi, che c'è un po' di scuotimento e si rivedono un po' certi parametri, si diventa più consapevoli di certe cose. Non ci sono più le mezze stagioni. Eccoci qui, riprendiamo dopo pochissimo, sempre Roberta Giordano con voi, sempre opinionista estemporanea di oggi, è Sarina Biraghi, direttrice del quotidiano Il Tempo, e le vostre telefonate che continuano a convogliarsi verso l'800 24 00 24. Che ne pensi, prima di Antonio da Padova, di Nunzia dalla provincia di Verona, Sarina, della polemica, intanto la frase, no, di Berlusconi su Mussolini, che dice sì, le leggi razziali sono la cosa peggiore che aveva fatto, però ha fatto anche delle cose buone, ma non è tanto quello che ha detto lui e le polemiche internazionali, ma... Brunetta, e su questo sono intervenute molte ascoltatrici e ascoltatori sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni, Brunetta ha detto, ma in realtà ha solo espresso una frase di buon senso, perché è quello che pensa la maggioranza degli italiani. Tu pensi che sia così, che la maggioranza degli italiani ritiene che Mussolini abbia fatto delle cose buone? Ma direi di no, non credo che la maggioranza degli italiani pensi questo, a meno che non si pensi alle cose, e lo dico come la prima perché io ci vivo, a città come Latina fondata da Mussolini, cioè questa è una cosa buona, ha fatto le città di fondazione, ma se uno pensa soltanto quelle, no, Mussolini è storia, quindi non è Berlusconi che può riscrivere la storia. La frase è stata sicuramente strumentalizzata, però va detto che Mussolini non doveva assolutamente dire quella frase in quel contesto, insomma è stato come minimo il momento sbagliato nel luogo sbagliato. Il giorno della memoria, poi, no? Esatto, per ricordare... il giorno memoriale su Binario 21, era una frase quantomeno inopportuna. E vedo, insomma, moltissimi interventi, tutti sdegnati sulla pagina Facebook, solo due mi sembra che dicono, beh, ha fatto anche delle cose buone, insomma, ognuno poi ha la propria opinione, anche se appunto, come dici tu, la storia è la storia, non è che si possa confutare ogni momento. E c'è Nunzia dalla provincia di Verona. Nunzia. Buonasera. Buonasera. Sì, buongiorno, buon pomeriggio. Quel che vuoi, insomma. Volevo dare la mia opinione sulla sentenza sull'uso di droghe di gruppo, no? Sì. Di che è stata varata, che secondo me appunto comunque una legge demente, perché di base favorisce il traffico di droga, favorisce i giovani che vadano, perché dove si compra, dove si va a dov'è? Allora si va fuori a prenderla, no? In tutti gli stati che sappiamo. Favorisce i giovani che cominciano a fare viaggi per comprare, per portare a casa, che poi magari arrivano, li trovano con delle cose addosso ed è va bene così. Oppure chi meglio degli extracomunitari che ci sono in giro, che ce n'è nazisti, cioè, che vanno a casa o a fare un viaggio e se le portano addosso per poterle vendere, visto che ci sarà una richiesta massiccia se è libero poterlo fare. E invece se uno se la potesse coltivare in casa, cioè se esiste comunque, cioè nel senso che vabbè, tenendo chi vuole, tenendo comunque le leggi, cioè se uno se la potrebbe coltivare in casa, si fa il cotogeno, non si coltiva lo spaccio, cioè non si prolifica lo spaccio, tenendo comunque delle leggi civili almeno comunque a pari a quelle dell'alcol, nel senso che se uno si fa una canna oggi, fra tre giorni, se fa un incidente, cade, se la ritrova ancora addosso. Invece bisognerebbe fare almeno il calcolo del THC, perché un conto se uno si fuma una canna, 10 canne, dopo va in giro in macchina, che comunque non andrebbe a cioè se proprio si accascia perché non va veloce come la cocaina porta a fare, come l'alcol Nunzia, porta no, a fare, ho capito veloce. Insomma che non okay. Condividi questa sentenza, era un po' arzigogolato diciamo il tuo ragionamento, non so se Sarina Viraghi ti sei fatta un'idea precisa su questa sentenza della Cassazione, che vuol dire secondo la legge Giovanardi Fini, se non sbaglio, ci può essere l'uso personale, no? Esclusivamente personale. E qui dice se sono tanti che si mettono d'accordo, andiamo a comprare o mandano Tizio Pippo a comprare da un tizio e lo riporta tutti quanti in gruppo, quella comunque diventa poi consumo individuale. Non so certo, se è fatto consumo individuale insieme ad altri. È reato invece vendere la droga, quindi lo spaccio è un reato. Rimane certo. Reato. Mm. L'importante è che non ci sia questo equivoco, diciamo. Certo, se questo è secondo la legge, consumarla insieme non è un reato. Ora, le conseguenze, forse la signora parla delle conseguenze. Sì, delle conseguenze, chiaramente. Uno poi non si deve mettere alla guida. Insomma, questo non è un altro... fa parte della legge la conseguenza, perché effettivamente allora se facciamo come l'alcol non si può neanche più bere, perché neanche i famosi, no? Centilitri, quant'è lì? Non mi ricordo neanche più. Bene, adesso abbiamo il nostro collegamento satellitare con un altro pianeta. Riflessioni da Marte. Osservando da quassù, da Marte, col telescopio, per carità magari a volte un po' appannato per l'opacità di certe situazioni, osservando, dicevo, il paesello stivalesco da quassù, mi è parso di capire che se ne dica del bipolarismo ormai scemato, della frammentarietà dell'offerta politica, in realtà l'Italia non è forse mai stato un paese così spiccatamente bipolare come in questo momento. Pensateci un po'. Da una parte i rastrellatori di miliardi, quelli della banca del buco lassù sul Monte dei Paschi, obviously, e giù dal monte, dall'altra parte, oltre metà degli italiani che non è più in grado di sostenere la famiglia, no? Una situazione bipolare. E ancora, conferma della spiccata vocazione bipolare italica, da una parte una folla di politici che ancora non si sentono, e come non comprenderli del resto, di applicare ai loro privilegi la spending review, quella che fa sempre rima con parlami d'amore Mariù, e si fanno pure trovare con le mani nella Nutella. Perché qui è tutto magna magna. E dall'altra parte invece un'assai folta popolazione che imparando mai come quest'anno certi vocaboli in inglese vive una vita low cost. Ed ecco dunque compiuto il bipolarismo perfetto. Ma su questo armonico quadretto irrompe improvviso il sospetto di un pruriginoso scandaletto. Anzi, dalla dichiarazione a ciel sereno di un leader politico pare prefigurarsi il più imbarazzante, torbido scandalo sessuale degli ultimi 153 anni. Sentite. Quando erano presidenti del Consiglio si calavano le braghe davanti alla Merkel. Vabbè, amati. Chissà se sarà più questa clamorosa, scandalosa rivelazione a cambiare le sorti del voto, oppure l'acquisto di una mela bacata che gioca a pallone. È proprio vero che fa bene un po' di partecipazione. Con cura piego le due schede e guardo ancora la matita così perfetta e temperata. Io quasi quasi me la porto via. E ritorniamo subito con i piedi per terra, lasciamo l'altro pianeta. Tra l'altro, a proposito di mele bacate e di calcio, notizia proprio di adesso, esonerato Zeman, l'allenatore del Roma. Sapete, ieri è stato proprio una debacle contro il Cagliari, 4-2 ha perso. Non so se Sarina Biraghi, tu sei una tifosa? Io sono una tifosa, però pur stando a Roma e dirigendo il Tempo non sono romanista. Si può dire per cosa uno vota, ma forse la si squadra. Può dire, sono sì. Juventina, molto diffusa Juventina. Questa cosa. No, niente, ma sicuramente questa per noi oggi è una grande notizia, ovviamente, perché Zeman esonerato il boemo, come chiedevano ieri i tifosi dopo la sconfitta, è un vero caso. Allora, c'è Antonio da Padova, sempre all'800 24 00 24. Antonio, buongiorno. Buongiorno Antonio. Buongiorno, io sono invece di Padova e sono romanista, quindi mi hai dato una notizia. È bello questo incrocio così, no? Siamo italiani, insomma, benissimo Antonio. Esatto, no, io volevo ritornare su quello che aveva detto l'ascoltatore. Senti, ma sei prima. Romanista e sei contento anche tu dell'esonero di Zeman o... No. No. Non troppo perché non ci fa bene in questo momento della stagione. Comunque questo è un altro discorso, però è così a non, caso, non fa bene, ma... come la bronchite di questa stagione, insomma. No, esatto. Comunque, a parte questo, sì, che è un altro argomento, volevo ritornare su quello che aveva detto l'ascoltatore prima, che aveva parlato della non notizia della settimana, cioè della mancata dimissione di Bersani per lo scandalo MPF. Ah, Michele, sì, aveva detto questo. Sì. Sinceramente, secondo me, io ho visto che finora l'atteggiamento a parte quelle che sono le notizie che ancora che più che altro danno di indagati di altra colorazione, ma comunque questo non sono ancora notizie, cioè, mi sembra che finora l'atteggiamento del Partito Democratico non sia stato tanto di copertura, quindi io sarei anche abbastanza tranquillo anche per il passato. Hanno chiesto anche appena... la commissione d'inchiesta, Bersani ha detto sì, di sì. Ho detto anche per il passato, finora, per carità, le mele marce, per usare l'espressione... Che non sono solo i calciatori, insomma. No, c'è stato un atteggiamento finora, almeno del PD, abbastanza netto nei confronti di chi si è reso responsabile, cioè di qualsiasi tipo di malefatta, perché è logico in un partito che ha anche una così alta, larga base elettorale, un così alto numero di dirigenti, non dico che sarebbe... è strano se non ci sia qualche mela marcia, insomma, nei grandi numeri. E quindi, però, l'atteggiamento di gli anticorpi mi pare che se li siano creati. Quindi da questo punto di vista mi sembra che starei tranquillo, cioè se si trovasse qualcuno nel partito che ha fatto qualcosa, io penso che ci sarebbe subito una risposta, anche per una serie di meccanismi che ci sono dentro. E poi ho trovato molto carino il servizio dall'altro pianeta, soprattutto no, perché... quella è una marziana, sì, che parla. Sì, ma sì. No, ma difatti mi pareva di averla riconosciuta. Comunque, sì. Perché il vero bipolarismo è proprio questo, e purtroppo, secondo me, anche questa campagna elettorale non fa altro che allargare questo divario tra i due poli veri del paese, insomma. Chi ha di più e chi ha quasi niente. Non se ne va fuori, purtroppo vedo la gente normale che non ha nessun tipo di apprezzamento per i messaggi che vengono lanciati, nessun tipo di apprezzamento per le polemiche che ci sono. Io capisco tutti gli interessi, la polemica, gli attacchi di Monti che sono strumentali, i richiami di Berlusconi al Duce che possono essere strumentali a richiamare altro elettorato, ma di cui secondo me la gente non vota solo, non ascolta solo con la pancia, la gente vorrebbe vedere qualcosa di più concreto per risolvere i propri problemi, e qui non se ne sta parlando mai. Ti ringrazio Antonio. Non ci sono più le mezze stagioni. Direi di andare a sentire subito adesso il numero verde, Simone da Milano. Ah, buonasera, grazie per la possibilità che mi date di intervenire. Grazie a te, Simone. Volevo innanzitutto dire che mi trovo pienamente d'accordo con i primi due ascoltatori, ovvero quello che ha detto che non siamo un popolo unito, contrariamente ai tedeschi e agli inglesi, e lo si vede nelle varie situazioni. Noi siamo estremamente divisi al nostro interno, no? voglio dire. E poi, ecco, anche il secondo ascoltatore che parlava della vicenda dei Monti di Paschi di Siena, per quanto riguarda le affermazioni fatte da Berlusconi sul Duce, mi sembra che se le si vogliono travisare con un unico fine, quello di distrarre l'attenzione sulla vicenda Monte dei Paschi di Siena. E chi vorrebbe distrarre l'attenzione sul Monte dei Paschi? Ma è evidente, no? Il Partito Democratico, quello che ha cercato di cavalcare queste affermazioni. No, ma al di là di questo, Simone, perché potrebbe essere, ma secondo te una frase su Mussolini di quel tipo, chiunque l'avesse detta, non perché l'ha detto, è degna di essere commentata. Appunto, guardiamo quello che ha detto. Innanzitutto non ha sminuito la gravità delle leggi razziali, che sono una cosa di una gravità assoluta. E poi per quanto riguarda l'aver detto che il Duce ha fatto anche delle cose positive, mi sembra che abbia fatto anche il sistema pensionistico, la cassa malati, le opere infrastrutturali nell'ambito del paese. Simone, ma siamo d'accordo che è stata una dittatura anche abbastanza sanguinaria. Ricordiamo solo qualche, no, da Gobetti a Matteotti a tutti gli avversari politici. La gente è deportata proprio sul binario 21 della stazione di Milano, ebrei, omosessuali, eccetera, che sono andati a morire nei campi nazisti. Nessuno sminuisce la gravità di quello che ha fatto il Duce in merito alle leggi razziali. Attenzione, ma non l'ha voluto. Però Simone, a volte anche un pedofilo, un mostro può fare nella sua vita qualcosa di buono alla fine, ma non è che lo si può giudicare per quelle due cose, no? Certo, sì. Ma infatti lui non ha detto che ha fatto tutte cose buone, ha detto che ha fatto delle cose sbagliate, molto sbagliate, e delle cose anche che sono delle cose giuste. La questione del Monte dei Paschi di Siena, l'ascoltatore che dice che il PD non è coinvolto, non può essere considerato coinvolto nella cosa, come ha detto anche la direttrice che avete ospite in trasmissione. Ma mi perdoni, se D'Alema addirittura si vanta del fatto di aver provveduto al cambio del vertice della banca proprio perché c'erano delle cose che non andavano. Innanzitutto, facendo una dichiarazione di questo tipo, si attribuisce al partito il coinvolgimento nell'ambito della banca, perché io non è che posso personalmente, ad esempio, cambiare il vertice di una banca, no? Se lui l'ha fatto è perché evidentemente è un po' più coinvolto di quello che posso essere io. Sì, no, ho capito Simone, no, è stato chiarissimo. Anche Sarina Biraghi diceva, non è che c'entra loro direttamente materialmente, semmai hanno una responsabilità morale. Adesso però dobbiamo, prima che Sarina poi mi dica cosa ha scelto tra le ultime notizie da commentare, abbiamo questo appuntamento con il nostro Giuseppe Busia, esperto di diritto costituzionale, perché voglio fino al voto chiarirci un po' le idee sul nostro sistema, sul porcellum, diciamo, sul porcellum. Giuseppe, ciao, io oggi volevo chiederti perché la Lombardia è così al centro, dicono l'Ohio, il nostro Ohio, lo Stato americano, dove si deciderà, insomma, se chi vincerà avrà davvero la maggioranza al Senato. Perché c'è questa differenza in tre minuti che abbiamo tra Camera e Senato nel voto? Perché tutto il sistema è basato sul premio di maggioranza, cioè la regola base è che il partito che prende più voti, anche se ha per esempio il 30%, ottiene almeno il 55% dei seggi della Camera. Questo alla Camera. Però esiste una differenza, appunto. Noi abbiamo due Camere, fanno lo stesso mestiere, il cosiddetto bicameralismo paritario, e mentre alla Camera chi prende più voti, il premio è calcolato su base nazionale, per cui il partito che su base nazionale prende più voti ha garantiti 340 seggi su 630, il 55% della Camera, e può sostenere un governo tendenzialmente stabile, salvo che non ci siano fughe o risse interne. Al Senato invece il nostro Senato è eletto su base regionale, per cui questo premio del 55% esiste, ma viene calcolato regione per regione, per cui se per caso il partito che ha vinto sul piano nazionale e quindi ha conquistato la Camera perde o arriva secondo in alcune regioni importanti, come prima di tutto la Lombardia che tu richiamavi, dove si eleggono quasi 50 senatori, questa maggioranza non è più garantita e quindi il Senato non ha un premio unico che garantisce il 55%, ma ha tanti premi che si sommano fra loro, a volte in modo casuale, quindi un po' una lotteria, si è detto, perché se in alcune regioni importanti, Lombardia, Sicilia o Campania, non vince lo stesso partito, la stessa coalizione che ha vinto alla Camera, ecco che abbiamo, come purtroppo è capitato, o maggioranze estremamente esigue ovvero due maggioranze diverse, e quindi basterà il passaggio di un senatore da una parte all'altra e l'aprirsi di, speriamo non ricapiti, compravendita, come si era detto in passato, di uno o due senatori, che il gioco si rimette tutto in gioco, e quindi non si ha un governo stabile, non si ha la possibilità di avere una o legislatura di lunga durata, oppure un governo che in realtà non riesce ad andare avanti perché deve contrattare ogni suo provvedimento. Quindi il rischio è che tutto lo sforzo che si è fatto per avere un sistema che garantisca proprio la governabilità, maggioranza, che un governo sia stabile, venga messo in crisi dall'esistenza, da questa lotteria dei premi regionali e la impossibilità di avere un premio nazionale come la Camera. Quindi c'è un ulteriore motivo, già rispetto a quello che dicevamo l'altra volta, dei pluricandidati in più regioni, per cambiarlo poi a un certo punto questo sistema elettorale, questo porcellum. Bisogna correggerlo. L'idea del premio probabilmente non è terribile, messo così è un sistema sicuramente da cambiare. Speriamo che la prossima legislatura ci si riesca. Grazie Giuseppe Busì, alla prossima, prossimo sabato. Grazie. Ciao Giuseppe. Sarina Biraghi, hai scelto allora la notizia che vuoi commentare in chiusura? Sì, ho scelto quella dell'università, però volevo dire una cosa per unirmi a quello che diceva la Marziana. Sì. Cioè che a guardare un po' questo nostro paese, a guardarlo anche con un po' di cinismo, no? Nei confronti degli scandali, abbiamo visto che i politici si mettono sui conti la Nutella, i pranzi un po' così con le ragoste, le ostriche, sontuosi, mentre i nominati dalla politica si portano via i sacchi di soldi, e quindi la raffigurazione direi di una classe dirigente piuttosto misera che sta implodendo. E aggiungo per gli ascoltatori che tra gli avvisi a proposito del Monte dei Paschi per gli indagati non c'è nessun politico, quindi sono tutti sì, manager, e quindi ribadisco, sicuramente il PD ha un legame con il Monte dei Paschi, ma per ora è fuori dalla vicenda giudiziaria. Per quanto riguarda la notizia degli studenti, che è una notizia direi che mi colpisce molto, no? Questi 58.000 iscritti in meno, come se chiudesse la statale di Milano. Sì. Aggiungerei a questo dato anche il 20% di fuoricorso, non solo, poi uno su cinque che abbandona l'università. Ecco, è un momento di crisi per l'università legato alla crisi economica, quindi io credo che per rendere veramente più efficace l'università è necessario un ripensamento, ovvero razionalizzare l'offerta universitaria in modo che i corsi di laurea rispecchino soprattutto le esigenze del mondo del lavoro, e quindi più relazione tra il mondo accademico e le aziende, che è l'unico modo per far lavorare i giovani e soprattutto far scegliere loro uno sbocco, un corso di laurea che poi abbia uno sbocco occupazionale quasi sicuro, questo va detto, cioè ripensare un po' l'orientamento universitario. Capisco che in questo momento di crisi la palla sicuramente passa, manteniamo i termini sportivi, passa al nuovo governo che verrà e che dovrà mettere nei suoi programmi, oltre a fare, come sentiamo tutti i giorni, le tasse, vedevo questo, vedevo quello, di alleanze, mettere dei programmi e mettere i giovani, che sono gli adulti del futuro, sono quelli che devono vivere in questo paese e non scappare. Anche perché forse è probabile che non credano più neanche nella formazione, diciamo, di alto livello con l'università, no? Come strumento di promozione sociale, perché l'ascensore sociale sembra rotto. Quindi se ci fosse un tecnico, lo chiederò anche la prossima settimana, un tecnico degli ascensori, si faccia avanti. In chiusura, visto che restiamo sul calcio, cara Sarina Biraghi, questo Balotelli, questa mela bacata, sposterà i voti secondo te in una frase, in una parola? Secondo me pochi. Pochi? Sposta poco. Poco ma buono, secondo te? Qualcosa farà? Gli italiani vogliono appunto lavoro, occupazione, e calcio, calo delle tasse. E tanto calcio. Grazie Sarina Biraghi, grazie a tutti e a tutti, da Roberta Giordano, Sereni Orizzonti, a tutti.